Sei tu che non chiedi permesso, se entrata e se uscita lo stesso, a volte appena sfiorandomi, altre come se non ci fossi. Adesso non sopporto le scuse, scusarsi è come avere pochissima memoria, i tuoi silenzi fanno male, lasciano tracce, non ti perdono. Sono lividi e fiori, sono lividi e fiori che portiamo nel cuore, sono lividi e spine, e il dolore si sente. E ho bisogno d'aria e di ventilazione, fare due passi nella notte, scordare il tuo nome. Ne ho bisogno come respirare e nascondermi in un niente, solo fare e disfare, è un semplice abbandono, ora non ti perdono. Siamo quello che siamo, minuti di un tempo sprecato, anime poco impermeabili a bere questa pioggia che scende. Sono lividi e fiori che portiamo nel cuore. Sono lividi e spine, e il dolore si sente. E ho bisogno d'aria e di ventilazione, fare due passi nella notte, scordare il tuo nome. Ne ho bisogno come respirare, e nascondermi in un niente, solo fare e disfare. È un semplice abbandono che ci sfugge di mano, ci sfugge di il dolore si sente.